Capitolo 26. Non si fanno patti. Fu la vita, non la morte, che arrivò nell'ora più spettrale della notte a Ingleside. I bambini finalmente dormivano. Devono aver sentito anche nel sonno che l'ombra si era ritirata silenziosamente e rapidamente come era arrivata. Quando si svegliarono il giorno era scuro per una benvenuta pioggia, ma nei loro occhi splendeva la luce del sole. Quasi non fu necessario che Susan, di 10 anni più giovane di come l'avevano lasciata, desse loro la buona notizia. La crisi era passata e la mamma sarebbe sopravvissuta. Era sabato, così non c'era scuola. Loro non potevano correre fuori, anche se amavano stare sotto la pioggia. Quell'acquazzone era troppo anche per loro. Così dovevano stare in casa ed essere molto silenziosi. Ma non si erano mai sentiti tanto felici. Papà, quasi insonne da una settimana, di corsa si era lanciato sul letto nella stanza degli ospiti per un profondo e lungo sonno, ma non prima di aver, con un'interurbana, mandato un messaggio a una Green Gable in agitazione ad Avonlea, dove due vecchie signore tremavano ogni volta che il telefono suonava. Susan, che ultimamente non ci metteva più il cuore nel fare i suoi dolci, preparò una gloriosa crema arancione per il pranzo. Promise degli involtini di confettura rossa per cena e al forno fece una doppia infornata di biscotti a base di burro e zucchero scuro. Cock Robin cinguettava ovunque fosse. Le stesse sedie sembravano voler ballare. I fiori nel giardino alzavano coraggiosamente di nuovo le loro facce, mentre la secca terra dava il benvenuto alla pioggia. E Nan, in mezzo a tutta la sua felicità, tentava di affrontare le conseguenze del suo patto con Dio. Non aveva intenzione di ritirarsi, ma continuava a rimandare nella speranza che le venisse un pochino più di coraggio per mantenere la promessa. La sola idea le congelava il sangue nelle vene, come usava dire Amy Taylor. Susan si rese conto che la bambina aveva qualche problema e le diede l'olio di ricino, ma non ci fu nessun miglioramento. Nan prendeva la dose in silenzio, benché non potesse evitare di pensare che Susan le dava l'olio di ricino con molta più frequenza da quello che era con il precedente patto. Ma che cos'era l'olio di ricino paragonato a camminare di notte per un cimitero? Semplicemente Nan non vedeva come poteva farlo, ma lei doveva. La mamma era ancora così debole che a nessuno fu permesso di vederla, tranne che per pochi istanti. Poi lei la vide così bianca e sottile. Era così perché lei, Nan, non stava mantenendo il suo patto? Noi dobbiamo darle tempo, disse Susan. O come si poteva dare del tempo a qualcuno? Si chiedeva Nan. Ma lei sapeva perché la mamma non guariva più velocemente. Nan strinse i suoi piccoli denti perlacei. Domani era di nuovo sabato e domani notte avrebbe fatto quello che aveva promesso. Piove di nuovo tutta la mattina seguente e Nan non poté evitare una sensazione di sollievo. Se era una notte piovosa, nessuno, neanche Dio, poteva pretendere che lei si aggirasse per i cimiteri. A mezzogiorno la pioggia si fermò, ma arrivò la nebbia, strisciando dal porto. Poi, sopra il Glen e circondando Ingleside con la sua misteriosa magia, Nan non aveva ancora perso la speranza, eppure con la nebbia non poteva andare. Ma per l'ora di cena si alzò il vento e il paesaggio da incantesimo della nebbia svanì. «Non ci sarà la luna stasera», disse Susan. «Oh, Susan, non puoi fare una luna!» gridò disperatamente Nan. «Se lei doveva attraversare il cimitero, ci doveva almeno essere la luna!» «Oh, benedetta bambina, nessuno può fare le lune», disse Susan. «Stavo solo dicendo che sta diventando nuvoloso e non si può vedere la luna. Che differenza fa per te se c'è o non c'è?» Questo era esattamente ciò che Nan non poteva spiegare, e Susan era più preoccupata di prima. Qualcosa doveva affliggere la bambina. Si era comportata stranamente per tutta la settimana, non mangiava nemmeno la metà di quello di prima ed era depressa. Si stava preoccupando per la mamma? Non serviva, la signora dottora cara si stava riprendendo bene. Sì. Ma Nan sapeva che la mamma avrebbe presto smesso di migliorare se lei non avesse mantenuto il suo patto. Al tramonto le nuvole andarono via e restò una luna rossa. Ma che luna strana! Una luna enorme, rosso sangue! Nan non aveva mai visto una luna del genere, era terrorizzata. Le quasi avrebbe preferito il buio. Le gemelle andarono a letto alle 8 e Nan dovette attendere fino a che Dee si fosse addormentata. Edì si prese il suo tempo. Era molto triste e delusa per addormentarsi subito. Tornando da scuola, la sua migliore amica, Elsie Palmer, aveva camminato verso casa con un'altra bambina e Dee aveva la sensazione che quasi la vita per lei fosse praticamente finita. Erano le 9 prima che Nan si sentisse sicura di scivolare fuori dal letto e vestirsi. Aveva le dita che tremavano così tanto che a malapena ce la faceva ad allacciarsi i bottoni. Poi sgattaiolò giù e uscì fuori dalla porta laterale, mentre Susan sistemava il pane in cucina e rifletteva pacificamente che tutti i suoi protetti e le sue protette erano al sicuro nel letto, tranne il povero dottore che era stato chiamato con urgenza da una famiglia di Harbour Mouth, dove un bambino aveva ingoiato una puntina da disegno. Nan uscì e scese giù per la Rainbow Valley. Dopo averla attraversata, doveva prendere la scorciatoia salendo per i pascoli della collina. Sapeva bene che vedere una delle due gemelle di Ingleside lungo la strada attraversare il paese poteva stupire e qualcuno probabilmente avrebbe insistito per riportarla a casa. Com'era freddo nel pieno di una notte di settembre. Non aveva pensato ad indossare la sua giacca. Rainbow Valley di notte non era certo l'amichevole ritrovo che era di giorno. La luna però era tornata a una grandezza ragionevole e non era più rossa, ma proiettava sinistre ombre nere. Nan aveva avuto sempre piuttosto paura delle ombre. Quelle erano proprio dei Paddy Feet nel buio, tra le felci appassite vicino al ruscello. Nan alzò la testa e sporse il mento. «Io non ho paura», disse impavida ad alta voce. «Ho solo una strana sensazione allo stomaco. Io sono un'eroina». La piacevole idea di essere un'eroina la portò a metà strada dalla cima della collina. Poi una strana ombra spazzò tutto il mondo, una nuvola stava passando sopra la luna e Nan si ricordò di Bird. Amy Taylor le aveva raccontato una volta la storia terrificante del grande uccello nero che di notte scendeva in picchiata su di te e ti portava via. Era l'ombra di quell'uccello nero, del Great Black Bird, che era passata sopra di lei. Ma la mamma aveva detto che non c'era nessun Blackbird. Non credo che la mamma mi possa dire una bugia. Non la mamma, disse Nan e proseguì fino a raggiungere la recinzione. Al di là c'era la strada e dopo il cimitero. Nan si fermò per riprendere fiato. Un'altra nuvola era finita sopra la luna. Tutto attorno a lei si stendeva una strana, oscura, sconosciuta terra. Oh, il mondo è troppo grande! Nan rabbrividì, schiacciata contro la recinzione. Se solo fosse stata a casa sua a Ingleside, ma. Dio mi sta osservando, disse la briciola di 7 anni e si arrampicò sulla recinzione. Cadde sul lato opposto, si scorticò il ginocchio, si strappò il vestito e, come si alzò in piedi, calpestò un mozzicone appuntito di una pianta infestante che trapassò completamente la sua pantofola, ferendole un piede. Ma zoppicando attraversò la strada verso il cancello del cimitero. Il vecchio cimitero era steso all'ombra di pini situati alla sua estremità orientale. Da un lato c'era la chiesa metodista e dall'altro la canonica presbiteriana, buia e silenziosa durante l'assenza del ministro. La luna improvvisamente emerse da dietro una nuvola e il cimitero si riempì di ombre, ombre che si muovevano e ballavano, ombre che ti avrebbero afferrata se stavi con fiducia tra loro. Un giornale che qualcuno aveva buttato svolazzava lungo la strada come una vecchia strega danzante, anche se Nan sapeva che era impossibile, che era tutto o parte integrante dell'inquietante straneità della notte. Swish, swish. Andavano i venti nella notte tra gli abeti. Una grande foglia di salice accanto al cancello d'improvviso toccò la sua guancia come il tocco di una mano elfica. Per un attimo il suo cuore si fermò, eppure mise la mano sul gancio del cancello. Pensa a un lungo braccio che allunga una mano da una tomba e ti trascina giù. Oh! Nancy girò. Ora sapeva che patto o non patto. Lei non avrebbe mai potuto camminare attraverso quel cimitero di notte. E all'improvviso sentì un orrendo lamento lì vicino a lei. Era solo la vecchia mucca di Mrs. Ben Baker che pascolava sulla strada, che usciva da dietro un gruppo di abeti rossi. Nan, però, non aspettò di vedere cosa fosse. In uno spasmo di panico incontrollabile si precipitò giù per la collina, attraversò il villaggio e su per la strada verso Ingleside. Prima del cancello balzò a tutta velocità dentro ciò che Rilla chiamava la fozza di Pango, ma era a casa, con le soffuse calde luci nelle finestre, e un attimo dopo Nan apparve nella cucina di Susan, sporca di fango e con i piedi bagnati e insanguinati. Santo cielo, disse Susan. Oh, non ho potuto camminare attraverso il cimitero, Susan, proprio io proprio non ho potuto, ansimò Nan. Subito Nan non fece domande. Sollevò una Nan stordita e gelata, le tolse le pantofole e le calze bagnate, la svestì, le mise la camicia di notte e la portò a letto. Quindi scese a prenderle un boccone. Non importava ciò che era successo alla bambina. Lei non poteva lasciarla andare a letto, a stomaco vuoto. Nan mangiò il suo spuntino e beve il suo bicchiere di latte caldo. Oh, che bello era tornare in un ambiente familiare, la stanza illuminata, al sicuro nel suo bel letto al calduccio. Non volle raccontare niente a Susan. È un segreto tra me e Dio, Susan. E Susan andò a letto dichiarando che sarebbe stata una donna felice quando la signora dottora Cara fosse stata nuovamente in piedi e nei paraggi, vicina ai suoi figli. Sono oltre la mia portata, sospirò Susan impotente. E la mamma adesso certamente sarebbe morta. Nan si svegliò con quella terribile convinzione nella mente. Lei non aveva mantenuto il suo patto e Dio avrebbe fatto altrettanto. Durante la settimana successiva la vita di Nan fu terribile. Non riusciva a trovare piacere in niente. Anche vedere Susan che filava in soffitta, cosa che aveva sempre trovato così affascinante. Non sarebbe più riuscita a ridere. Che importanza ormai poteva avere per lei? Aveva dato via il suo cane imbottito con la segatura, il quale aveva avuto le orecchie tirate da Ken Ford e che amava ancora più del vecchio Teddy. Nan aveva sempre preferito le cose vecchie. L'aveva data a Shirley, che l'aveva sempre desiderata, e aveva dato la sua pregiata casa fatta di conchiglie che il capitano Malachi aveva portato con sé per tutta la strada del ritorno dalle Indie Occidentali a Rilla, sperando di soddisfare Dio. Ma quando il gattino che aveva dato a Amy Taylor, perché desiderava averlo, con insistenza tornò a Ingleside, Nancy rese conto che Dio non era per nulla soddisfatto di lei. Niente lo avrebbe soddisfatto. Lei doveva solo camminare attraverso il cimitero. E la povera, tormentata Nan sapeva che quello proprio non poteva farlo. Era una vigliacca, una codarda, una spia. Solo le spie, aveva detto una volta, Jem, cercano di evitare i patti. Anna aveva il permesso ora di sedere sul letto. Era quasi guarita dopo la malattia. Presto sarebbe stata ancora in grado di curare la sua casa, di leggere i suoi libri, di appoggiarsi comodamente ai suoi cuscini e di mangiare tutto quello che voleva, e di sedersi vicino al suo focolare, di prendersi cura del suo giardino, vedere i suoi amici, ascoltare un po' di pettegolezzi, dare il benvenuto ai giorni come gemme nella collana dell'anno ed essere un'altra volta una parte del colorito spettacolo della vita. Aveva mangiato proprio bene il cosciotto d'agnello farcito di Susan e raccotto a puntino. Era delizioso sentirsi di nuovo affamata. Guardò tutta la sua stanza, le cose che la circondavano e che lei amava. Oh, doveva metterci delle tende nuove, qualcosa tra il verde primavera e l'oro pallido. Certamente quei nuovi armadietti per gli asciugamani devono essere messi dentro il bagno. Poi guardò fuori dalla finestra. C'era qualcosa di magico nell'aria. Poteva intravedere il blu del porto attraverso gli aceri. La betulla piangente sul prato era una pioggia leggera d'oro. Vasti giardini celesti che si arcuavano su un'opulenta terra affittata all'autunno che ne aveva la completa disponibilità. Una terra di incredibili colori, una calda luce e ombre allungate. Cock Robin stava battagliando come impazzito con la cima di un abete. I bambini ridevano nel frutteto mentre sceglievano le mele e le risate erano tornate a Ingleside. La vita è qualcosa di più che un delicato equilibrio di chimica organica, pensò felice. Nella stanza strisciò Nan, con gli occhi e il naso rossi a forza di piangere. Mamma, oh mamma, devo dirti una cosa, non posso più aspettare, mamma, io ho imbrogliato Dio. Anna tornò nuovamente ad eccitarsi per il delicato tocco di una piccola mano di bambina che si aggrappava alla sua. Una bambina in cerca di aiuto e conforto per il suo amaro piccolo problema. Ascoltò, riuscendo a restare seria mentre Nan singhiozzava fuori tutta la storia. Anna era sempre riuscita a mantenersi seria quando si imponeva di farlo, per quanto dopo ridesse come una matta con Gilbert del tema in questione. Ma sapeva che la preoccupazione di Nan era reale e spaventosa e si rese anche conto che la teologia di sua figlia richiedeva attenzione. Oh, tesoro, stai terribilmente sbagliando su tutto. Dio non fa patti. Dio dà senza chiedere nulla in cambio da noi, tranne amore. Quando chiedi a papà o a me qualcosa che desideri, noi non facciamo dei patti con te. E Dio è sempre, sempre tanto più gentile di quello che siamo noi. Lui sa molto meglio di noi che cosa è bene dare. E non... Oh, mamma, non ti farà morire perché non ho mantenuto la mia promessa? Oh, certo che no, tesoro mio. Mamma... Anche se ho sbagliato per ciò che riguarda Dio, non dovrei mantenere il mio patto quando l'ho fatto. Ho detto che volevo, sai. Papà dice che dobbiamo sempre mantenere le nostre promesse. Non sarà un disonore per tutta la vita se io non lo mantengo. Cara, quando starò abbastanza bene, verrò con te una notte e starò fuori dal cancello. E allora non credo che avrai paura di passare attraverso il cimitero. Questo allevierà la tua povera piccola coscienza. E non farai più sciocchi patti con Dio? No, promise Nan, un po' dispiaciuta, sentendo che stava rinunciando a qualcosa che con tutti i suoi difetti era stato piacevole ed emozionante. Ma gli occhi erano tornati a brillare e la sua voce aveva recuperato un po' della sua precedente vivacità. Vado a lavarmi la faccia e poi torno a baciarti, mamma, e ti raccoglierò tutte le bocche di leone che riesco a trovare. Oh, è stato terribile senza di te, mamma. Oh, Susan, disse Anna quando Susan le portò la cena, ti rendi conto di che cosa è il mondo? Quanto è bello, interessante, meraviglioso, non è vero, Susan? Per adesso è così, ammise Susan, pensando alla bella fila di torte che aveva appena lasciato nella dispensa, come a dire che era sopportabile.